Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. I dati diffusi dall'Istat oggi sono dati relativi chiaramente al 2012, ma segnalano una difficoltà nella nostra industria che si ripropone dopo quella pausa del 2010 e anche il 2011, che fu un anno difficile, ma non certo così difficile come il 2012. Perché lo dico? Perché l'Istat segnala un fatturato sostanzialmente che, pur avendo avuto una leggera crescita a dicembre a livello congiunturale, cioè sul mese precedente, ha fatto nel mese di dicembre meno 9,2% sull'anno precedente, e gli ordinativi all'industria meno 15% a dicembre, il che vuol dire il dato peggiore dal 2009, dall'anno peggiore da quando è scoppiata questa crisi. Questo lo dico perché segnala ulteriormente le difficoltà in cui si muove la nostra impresa. Se la classe politica, oltre che parlare di tasse più o meno irrealistiche come proposte, decidesse di varare misure di sistema, quindi articolate, non spot, non elettorali, non da slogan, non sarebbe male. Il peggior dato dal 2009 è quello di dicembre. Tra l'altro, sempre l'Istat segnala come sul fronte della domanda interna invece il dato sia ancora più difficile. Perché? Perché nel 2012 il fatturato complessivamente ha fatto meno 4,3%, gli ordinativi all'industria meno 10%, ma soprattutto tutto questo calo è da attribuirsi alla domanda interna, non dico che non ci sia più, ma sta tornando a livelli da anni 90, meno 7,6%. L'estero invece ha fatto un più 2,6%, a dimostrazione che quel poco di ripresa che c'è è tutta in paesi che stanno crescendo. Non oso pensare che numeri avremmo dovuto commentare se non vi fosse stato almeno questo più 2,6% nell'andamento della domanda estera. Ancora, per quello che riguarda invece il rapporto, sempre l'Istat fa notare come ci sia una difficoltà vera e propria anche nei consumi delle famiglie, ma di questo parleremo. Vorrei però aggiungere un dato che riguarda invece il settore dell'edilizia. Già ce ne siamo occupati la settimana scorsa con la manifestazione davanti a Piazza Affari delle imprese dell'edilizia lombarde. Oggi, nel corso della presentazione del rapporto, lo ha detto lo stesso presidente Buzzetti dell'ANCE, insomma, il 2012 è stato per l'edilizia l'anno peggiore dal 1995, meno 14% nella produzione rispetto all'anno prima. Chiede l'ANCE, oggi ha avuto un incontro con il leader di Lista Civica Mario Monti, ha chiesto di sbloccare 39 miliardi di fondi disponibili per gli investimenti mai spesi, che in realtà sono già stati deliberati ma poi bloccati dal CIPE oppure bloccati per i vincoli del patto di stabilità. E poi questo creerebbe, secondo l'ANCE, una ricaduta complessiva nell'indotto di 130 miliardi con la creazione di 600.000 posti di lavoro. E il tema poi c'è tutto, perché molti di questi soldi bloccati non sono per le grandi opere, ma sono per piccole opere delle province, dei comuni, delle regioni, anche opere di manutenzione o di miglioramento stradale, a opere di edilizia sociale, quant'altro, bloccate anche per i comuni e le province virtuose, cioè quelle che non hanno problemi con i conti, dal patto di stabilità interno, che ripeto danneggia, è doppiamente beffardo, perché punisce chi ha ben amministrato e in realtà avvantaggia chi ha male amministrato, perché finché continuiamo a guardare la spesa storica e non la spesa standard, verranno premiate quelle amministrazioni che hanno sprecato molto e quindi hanno una spesa storica molto alta, e quella viene utilizzata come parametro. Le amministrazioni che hanno risparmiato, che hanno tagliato, che si sono messe in efficienza e che hanno anche dei soldi a disposizione vengono bloccate dal patto di stabilità interno, e questo è obiettivamente un assurdo. Anche di questo parleremo, come sempre anche di borsa e poi del Made in Italy. Avremo un approfondimento da un lato sulla necessità di appoggiare ancora di più il nostro export, dall'altro sull'offerta che è arrivata invece per comprarsi le acciaierie speciali di Terni da parte di una cordata formata oltre che dalla società lussemburghese Aperam, che fa parte del gruppo ArcelorMittal, il colosso mondiale indiano dell'acciaio, anche dalle italiane Ilta Inox e il gruppo Marcegaglia, per rilevare appunto l'acciaio speciale di Terni. E poi appunto i dati Istat. La borsa come va? Meno 0,90% il FTSE MIB, meno 0,90% anche Parigi, meno 0,50% Francoforte, più 0,30% Londra, meno 0,20% in questo momento l'America. Euro a quota 1,3345, i titoli oggi invece flette dopo essere cresciuta nei giorni scorsi. Mediaset meno 4%, la Popolare di Milano perde il 3,20%, Telecom Italia il 2,5%, il Banco Popolare perde il 2,1%, Unicredit il 2%, l'Emilia Romagna come banca popolare perde l'1,80%, Enel l'1,5%, Inter San Paolo in calo dell'1,20%, Eni dell'1% come Toz e il Monte dei Paschi. Fronte opposto, Parmalat più 4,30%, A2A più 3,90%, Ansaldo più 2,45%, Autogrill più 2,20%, Azimut più 2%, Luxottica più 1,30%, Diassorin più 1,20%, Ubibanca più 1,1%, Lottomatica più 1%. Come sempre, per comunicare con il programma, la pagina di Focus Economia su Facebook e il numero per gli SMS che è 349-238-6666. Restiamo sui mercati internazionali, petrolio $97 al barile a New York, oro in rialzo $1,600, $1,609, comunque siamo ben lontani dai record sull'oro. In Giappone la cura del neo primo ministro non sta ancora dando i suoi effetti, il Giappone ha operato una maxi, non so, il paese forse più keynesiano che c'è in questo momento al mondo. Enormi decine e decine di miliardi per rilanciare l'economia e anche svalutazione dello yen, o meglio non rafforzamento dello yen. Non si vedono ancora risultati perché anche a gennaio c'è stato un deficit commerciale record in Giappone, cioè la differenza tra quanto Giappone esporta e quanto importa è negativa per 13 miliardi di euro. È, pensate, il peggior deficit commerciale del Giappone dal 1979, è il settimo mese di fila che il Giappone ha un rosso nella sua bilancia commerciale, e il motivo si chiama stagnazione / recessione in Europa. Il Giappone esporta molto in Europa, l'Europa è ferma, anzi va indietro in alcuni paesi come l'Italia, la Spagna, Grecia, Portogallo, la Francia è in completa stagnazione e quindi frenano tutte le esportazioni giapponesi in Europa, ma anche una debolezza dell'export giapponese in Cina e una debolezza competitiva del sistema manifatturiero nipponico in generale. Poi c'è una notizia su cui si dovrebbe interrogare la Russia di Putin, perché oggi il presidente della Banca Centrale Russa, Sergei Ignatiev, con un'intervista abbastanza inusuale in un paese in cui non è che la libertà di stampa proprio sia, no? Un fiore all'occhiello, ha fatto un'intervista e ha rivelato che nel 2012, pensate, 49 miliardi di dollari, pari al 2,5% del PIL russo, sono stati trasferiti fuori dalla Russia illegalmente. In un anno solo quasi 50 miliardi di dollari, dice il presidente della Banca Centrale Russa. Metà di questa cifra era controllata da un singolo gruppo di persone, i famosi oligarchi, i miliardari che vediamo girare per l'Europa. Possono essere, aggiunge il presidente della Banca Centrale Russa, possono essere pagamenti per droga, capirai, importazioni in grigio, pagamenti per tangenti, percentuali a dirigenti pubblici e a manager autori di grossi acquisti, che vengono pagati però all'estero, secondo le migliori tradizioni che ogni tanto vediamo anche in Italia. Vedi la vicenda Monte dei Paschi. Lo ha spiegato appunto il presidente della Banca Centrale Russa al quotidiano Vedomosti. Torniamo all'area euro. Mentre Angela Merkel ha dichiarato che secondo lei è normale un tasso di cambio dell'euro compreso tra 1,30 e 1,40, appartiene alla normalità nella storia dell'euro. Io non è che voglio fare ogni volta un attacco a Angela Merkel, ma deve guardarsi i grafici. I primi tre anni dell'euro, l'euro stava sotto quota 1, stava 0,80, 0,89, 0,90, poi 1,1, 1,13. Ma che dici? È da quando è scoppiata sta crisi che l'America si è messa a svalutare il dollaro che l'euro viaggia stabilmente a 1,30, 1,40. Dopodiché ricordo con estrema modestia Angela Merkel che secondo Morgan Stanley la Germania può reggere bene il suo export con un euro fino a 1,53 sul dollaro, mentre la Spagna oltre 1,26 va in difficoltà e l'Italia oltre a un livello di 1,19 inizia ad avere qualche difficoltà sull'export. Forse la Merkel diceva è normale per la Germania un cambio dell'euro compreso tra 1,30 e 1,40. Allora, caos in Francia per le dichiarazioni del manager di un gruppo americano, la Titan International, che per spiegare il mancato acquisto di una fabbrica Goodyear in Francia ha detto: i sedicenti operai francesi lavorano 3 ore al giorno. Le frasi del dirigente, appunto Maurice Taylor, già candidato alle primarie dei repubblicani per le presidenziali nel 96, risalgono al 2 febbraio scorso, ma sono state rese note oggi. Ha detto infatti Taylor: ho visitato questa fabbrica diverse volte, i salariati francesi percepiscono retribuzioni elevate ma non lavorano che 3 ore, hanno un'ora per le pause, per il pranzo, discutono per 3 ore e lavorano 3 ore. Pensate che saremmo così stupidi da acquistare una fabbrica del genere? Noi acquisteremo un produttore di pneumatici cinesi o indiano che pagherà meno di un'ora l'euro di salari e esporterà tutti i pneumatici di cui la Francia ha bisogno. L'agricoltore francese vuole delle gomme a basso prezzo, poco gli importa se vengono dalla Cina o dall'India. Sì, caro Maurice Taylor, peccato che però quando si tratti delle imprese americane, anche gli americani ragionano diversamente. Sia nei repubblicani che nei democratici l'imperativo è difendere l'occupazione in America, riportare l'occupazione dalle fabbriche cinesi alle fabbriche americane, difendere eventualmente anche con dazi la produzione americana. Allora, perché non va a farlo agli americani questo discorso? Chi se ne frega se sono dipendenti americani o cinesi quelli che producono le gomme, tanto l'agricoltore americano basta che le gomme siano a basso prezzo. Cioè, vediamo se in America ottiene le stesse dichiarazioni. Dopodiché, se permette, siamo al folklore che i dipendenti della Goodyear in Francia lavorino 3 ore al giorno, perché 3 ore chiacchierano e vanno in pausa pranzo. Sarebbe come dire che gli americani sono tutti cowboy che girano armati, per favore, no? La Commissione Europea oggi lancia un allarme di cui poi parla anche il presidente dell'Istat Giovannini, che sarà nostro ospite nella seconda ora, come ricordavo. Dice l'Unione Europea: aumentano i poveri in Italia, grazie, ce ne eravamo accorti. In un momento in cui la spesa sociale è bersaglio della spending review, la Commissione Europea invita a rivedere tutte le strategie nazionali, perché la spesa sociale non è solo un costo. Pensate un po' se dobbiamo farcelo dire dall'Europa. Non è solo un costo, ma anche un investimento che consente una crescita inclusiva. Cos'è la crescita inclusiva? È quella che cerca di includere il maggior numero di persone. Quindi l'opposto di quello che vediamo in Russia, visto che ne parlavamo, dove ci sono qualche centinaio di miliardari e poi una classe media che ha molta difficoltà ad affermarsi e un molto disagio sociale. La crescita inclusiva è quella che dovrebbe essere preferita da qualunque democrazia. Aumenta il potere d'acquisto di tutti in maniera il più possibile omogenea, non di alcuni. Noi osserviamo invece che in Italia da anni, da 10 anni, sta aumentando la forbice tra chi più ha e chi meno ha. È preoccupata l'Unione Europea. Dice: attenzione, ha chiesto a tutti gli stati membri di rivedere la propria spesa sociale. La crisi ha esacerbato la pressione sociale ed economica. Circa 120 milioni di persone, cioè il 4% della popolazione dell'Unione Europea, è a rischio povertà. La disoccupazione ha raggiunto un livello record del 10,7%, quella giovanile del 22%. In Italia il numero dei poveri è passato da 15 milioni del 2008 a 17 milioni. del 2011. Magari lo spieghino bene anche i tedeschi, che continuano a dire che tutto va bene in Europa, il cambio. Addirittura la Bundesbank ha detto che non è giusto aumentare i salari dei tedeschi, perché non sarebbe questa la soluzione. In realtà si continua a dire, se tu sei un paese molto ricco in questo momento e stai in una casa comune europea, un aumento salariale in Germania porterebbe i tedeschi a acquistare più beni e servizi e quindi aumentare anche un po' le importazioni e a riequilibrare, no, il flusso. Non possiamo andare avanti con una Germania che esporta solo e importa poco. Ma insomma, lo spiega, che lo spieghino anche alla Germania, perché il presidente dell'Istat poi aggiunge a commento di questi dati che gli esiti della crisi economica e sociale e occupazionale che l'Unione Europea sta attraversando sono imprevedibili. (349) 238 6666 per i vostri sms, Facebook, ossia la pagina di Focus Economia. E adesso purtroppo avete notato che non c'è più nessuno? Bellissimo oggi l'articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, che dice: nella campagna elettorale la parola spending review, cioè tagli mirati alla spesa pubblica, non tagli da macelleria, ma tagli mirati, è scomparsa. Perché non si vogliono toccare forse sacche di elettori. Per tutto il 2011 e il 2012 abbiamo parlato di spending review, revisione della spesa, è stato coinvolto anche Enrico Bondi e quant'altro. E adesso nessuno ne parla più, nessuno ha più il coraggio di dire che bisogna tagliare anche la spesa improduttiva. Vuoi perché vai a toccare interessi, consulenze, lobby e quant'altro, vuoi perché rischi di scontentare qualche elettore, ma tutta la campagna politica è ridurremo l'IMU, ridurremo l'IRPEF, ma i tagli alla spesa pubblica, cioè dobbiamo tenere così questi livelli di spesa pubblica, non si può tagliare niente? Lo chiedo. Vabbè, vediamo, perché noi invece continuiamo a raccontare episodi in cui forse i denari pubblici così bene non sono stati utilizzati. Raccontavamo di come spendere la Regione Sicilia due giorni fa i soldi per lo sport, tagliando lo sport di base per i ragazzini e spendendo in follie inutili di manifestazioni in cui obiettivamente puzzano di qualcos'altro. E ieri raccontavamo anche vicende che riguardavano il Lazio, le nuove nomine, la Lombardia e quant'altro, la sanità, il fatto che a Gaetano Pini di Milano levino un milione di euro con quello che abbiamo visto costare la sanità in Lombardia, secondo l'inchiesta della Procura di Milano ad alcune persone e ad alcuni amici. Oggi raccontiamo purtroppo qualcos'altro. Abbassare, non sarebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, non sarebbe più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tutte blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, c'è qualcuno che dice: ma lei sulla Germania ha le stesse opinioni di Berlusconi? Guardi, non mi interessa. Ho le opinioni che ho da sempre, che ha tra l'altro molto più illustre di me, il capo economista del Fondo Monetario Blanchard, che ha detto un mese fa: abbiamo sbagliato qualcosa in queste politiche di tagli e basta, tagli e tasse. Per uscire dalla crisi, perché l'Europa si becca un altro anno di recessione. Poi di quello che dicono i candidati nella campagna elettorale non è questo il programma che se ne occupa, e ognuno la pensi come vuole. Se lei pensa che io... Dopodiché non c'è niente di male a pensarla come Bersani su alcune cose, come Berlusconi su altre, no? Qual è il problema? Va bene, andiamo con le notizie. Allora, intanto lunga vita chi ha un contratto con il Senato. Perché? Perché praticamente i fornitori del Senato sono inamovibili. Allora, il caso più eclatante è il servizio tesoreria esportata di banca. È da sempre della BNL, che poi si fuse con BNP Paribas. due anni fa si è cercato di fare una gara, cioè il Senato dovrebbe fare una gara e dire al miglior offerente do il servizio. Niente da fare, il bando non esiste e di conseguenza il servizio fornito è ancora quello di BNL, che è stato prorogato. Ma poi c'è il caso della tipografia degli eredi Bardi, che stampa tutti gli atti emessi dal Senato. Nel 2010 ha offerto il servizio per 5,7 milioni, poi ridotto con la spending review a 2 milioni. Hanno cercato di indire una gara anche in questo caso per il servizio di tipografia, ma non è stata completata. La società ha ricevuto un'altra proroga. E poi la società che da anni si occupa di conduzione e manutenzione di impianti di climatizzazione, sempre la stessa, Elettrodinamica SPA, dal 2001, 1 milione l'anno, e adesso vedremo se si farà una gara. Anche la società che fornisce quotidiani e giornali è sempre l'Eco della Stampa, è una gara per servizio di assegnazione, anzi ha il servizio per assegnazione diretta, 200.000 euro l'anno. Nel 2011 è stata indetta una gara e un'azienda milanese, per non perdere il cliente, ha abbassato il prezzo di servizio a soli 57.600 euro, quasi un quarto in meno. Le gare servono, si mettono in concorrenza i vari imprenditori e vince quello che offre, o dovrebbe vincere quello che offre lo stesso servizio a prezzo più basso. Ancora, mentre a Roma all'Atac lo battezzano già il blitz del 26 febbraio, cioè il giorno dopo le elezioni politiche regionali, insisterà il Consiglio di amministrazione dell'Atac, che dovrebbe avere all'ordine del giorno un'assunzione di peso, quella di Simone Turbolente, già portavoce di Gianni Alemanno, attualmente capo ufficio stampa, e sembra che insomma le pressioni siano molte. Da questo punto di vista, e si sta cercando una soluzione, perché praticamente l'amministratore delegato di Atac, Diacetti, ha detto che quell'assunzione si deve fare. Per un po' Diacetti in realtà ha resistito, e poi, tant'è che smentiva a ottobre di voler prendere l'ex portavoce di Alemanno. Adesso invece il sindaco deve essere tornato alla carica, il manager ha capitolato, si sta cercando un compromesso, assumere Turbolente non come capo della comunicazione a quasi 200.000 euro l'anno, ma in un altro ruolo, con stipendio inferiore e a tempo determinato fino alla durata dell'incarico dell'amministratore delegato. Vedremo se ci riuscirà. Nel frattempo però su Lazio c'è un'altra grana, che questa volta riguarda l'allora presidente della provincia, Nicola Zingaretti. Che cosa è successo? C'è un'incredibile coincidenza di parenti e figli nei due concorsi banditi dalla provincia di Roma nel 2008. Ora, per essere precisi, il concorso fu bandito 2 mesi prima dell'arrivo di Zingaretti alla provincia. Perché dico questo? Perché il primo, 15 posti per istruttore amministrativo di categoria C, ha tenuto le graduatorie aperte fino al giugno 2012, consentendo un contratto a tempo indeterminato a 147 persone. Il secondo concorso, 20 posti per operatore di centro di formazione, ha invece scalato la categoria B3, la graduatoria fino alla casella 77. Tra gli istruttori amministrativi, si legge in un'interrogazione fatta dal senatore leghista Alberto Filippi, figurerebbero la figlia della dottoressa Maria Budoni, segretaria del presidente della provincia Zingaretti, diversi figli di dirigenti, dipendenti della provincia, figli di sindacalisti della provincia e anche il figlio del proprietario di un ristorante Tavola Calda frequentato dai dirigenti e dai politici della provincia. Devo dire che la risposta della provincia è che grazie a questo concorso e al modo in cui è effettuato arriva un risparmio da questa operazione di 6 milioni di euro. Nel frattempo, visto che ce lo chiedete, attendiamo ancora risposte dal neopresidente e numero uno dell'ENAV, l'ente di sicurezza sul volo, e dei 50 figli di, che ricordavamo ieri, assunti in maniera così quantomeno di opportunità. Ci sono anche i due figli suoi come controllori del traffico aereo. Attendiamo risposte. 17:38 minuti, di nuovo in diretta per raccontarvi la giornata economica. E allora, dicevamo che i dati dell'Istat oggi sono inequivocabili. La difficoltà della nostra impresa nel 2012 è stata pari solo al 2009, l'anno che però insomma si veniva dal crack Lehman Brothers, dal mondo che sarà bloccato, dall'interruttore che sarà spento nelle attività produttive mondiali. Qui invece il problema ce l'ha purtroppo solo l'area euro. Merkel: meno 4% il fatturato, meno 10% gli ordinativi, dato brutto. Adesso ne parleremo sui consumi interni. L'unica cosa che tiene è l'estero, una domanda del 2,6%. E allora ne parliamo con il Chief Operating Officer, il numero 2 di SACE, visto che oggi avete presentato il rapporto Quando l'export diventa necessario. Dottor Raul Ascari, buonasera. Buonasera a lei. Io direi quando l'export diventa obbligatorio più che necessario, un motivo di sopravvivenza. Voi siete, lo dico a chi non lo sapesse, il gruppo assicurativo finanziario che si occupa di gestione del credito, quindi assicurate il credito alle imprese italiane che vanno all'estero, offrite assistenza per la protezione degli investimenti e poi tutta la parte che riguarda le cauzioni, le garanzie finanziarie su operazioni commerciali e finanziarie. Dal 9 novembre dell'anno scorso la Cassa Depositi e Prestiti ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Voi offrite copertura a 25.000, quasi 26.000 imprese in oltre 180 paesi. Avete avuto un 2011 in cui le operazioni complessive hanno visto un valore di 72 miliardi di euro e avete un utile di tutto rispetto, oltre 300 milioni? Corretto. I dati del 2012 arriveranno fra poco, quindi non glieli chiedo, ma immagino saranno in linea? Sì, sono in linea con la sua anticipazione. Allora, visto che voi operativamente assicurate, fornite le garanzie finanziarie, le cauzioni, le imprese italiane che esportano, che bene hanno fatto nel 2012 come nel 2011, va riconosciuto. Da dove vedete arrivare le maggiori opportunità e, se vuole, per converso i minori rischi? E poi andiamo anche sui singoli settori, innanzitutto le aree geografiche. Ma guardi, le nostre previsioni per il prossimo triennio sono positive e partono dalla considerazione che vedremo un aumento del PIL globale e quindi un aumento della domanda globale, che ovviamente avrà ripercussioni anche sulle nostre esportazioni. Questo, diciamo, è l'evento esogeno, quello che è un po' al di fuori del controllo nostro e delle nostre aziende. Su questo poi si devono innescare dei continui guadagni di produttività da parte delle aziende che esportano e possibilmente anche una situazione di cambi e di valute che non sia peggiorativa, ovvero che riduca la competitività delle nostre aziende. Quindi se anche i fattori esogeni sotto il controllo delle nostre autorità monetarie europee e delle nostre aziende si muoveranno in quella direzione, prevediamo per le nostre esportazioni dei tassi di crescita superiori al 7%. Nel 2013 un più 7%, questa è la vostra, sì, previsione? Sì, e poi su questi livelli anche negli anni successivi. Beh, che è già è meglio di niente, e soprattutto un buon dato, perché anche dall'estero nel 2013 arriverà quel poco di, non dico ripresa, ma di riequilibrio del calo della domanda interna. Dicevo, le aree geografiche, voi siete anche molto attenti, c'è sempre il rapporto SACE, la mappa SACE delle aree più a rischio, perché dovendo assicurare le nostre imprese e fornire anche le garanzie, voi siete particolarmente sensibili, diciamo così, alle aree in cui poi invece i contratti possono saltare, non essere pagati, le garanzie non andare a buon fine. Ecco, quali sono le aree che voi vedete a maggior rischio? Andiamo per esclusione, quindi. A maggior rischio in questo momento ci sono alcuni paesi particolari che hanno delle situazioni politiche, delle situazioni di governance particolarmente deboli. Ovviamente mi riferisco a Venezuela, Argentina, sono pochi casi. Nel complesso direi che l'economia globale, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, non ha mai vissuto una situazione così solida nelle aree emergenti come quella degli ultimi anni. E questa situazione non è soltanto dei grandi paesi cosiddetti BRICS, ma si va estendendo anche a paesi di dimensione media o medio piccola, e perfino l'Africa, che è rimasto a lungo un continente in ritardo, ha oggi delle situazioni economiche in alcuni mercati particolarmente interessanti. Quello che però va evidenziato, e qui veniamo al nostro ruolo, che il concetto di paese emergente e ancora di più di paese in via di sviluppo non si riferisce soltanto al livello del PIL, che ovviamente è più basso rispetto ai paesi industrializzati, ma al fatto che le strutture economiche, di governo, politiche sono ancora relativamente deboli, e quindi questi paesi, ancorché con ottime potenzialità e con un trend in crescita, saranno soggetti a cicli. Quello che vediamo adesso ad esempio in Sudafrica, quindi Sudafrica ancora pochi mesi fa veniva l'iniziale, la S veniva aggiunta all'acronimo BRIC per individuare un altro caso eclatante di paese in crescita, e ultimamente abbiamo visto dei problemi politici e sociali, delle tensioni aumentare. Quindi il mio messaggio è: la crescita verrà soprattutto da questi paesi, però attenzione, perché sono paesi emergenti e quindi non sarà una crescita lineare, ma sarà ancora soggetti a cicli. Però lei ha ragione a ricordare che adesso noi ci occupiamo tanto di Europa in questo periodo, e ovviamente dall'attacco all'euro e ai paesi in maggior difficoltà quanto a debito in poi, quindi un anno e mezzo, però nel resto del mondo, per non essere un po' troppo provinciali e eurocentrici, la situazione è complessivamente calma. Adesso io non vorrei creare gesti scaramantici, ma insomma sono economie emergenti che, come dice lei, hanno anche poi problemi di, chiamiamola così, governance politica, di meccanismi politici, di rappresentanza, dei diritti e di quant'altro, dove però le tensioni rispetto a anni fa sono molto basse, sono state molto basse in questi ultimi due anni, quasi che fossero tutti concentrati a aumentare la loro ricchezza pro capite e complessiva più che a dividersi. Se le dicessi che i veri rischi, le tensioni maggiori arrivano dalla non emergente Europa o area euro? Questo è possibile ed è stato sotto gli occhi di tutti negli ultimi 18 mesi. Se lei rivede storicamente le analisi che venivano fatte fino a 10 anni fa, si riteneva che la convergenza dei paesi emergenti verso quelli industrializzati non ci sarebbe mai stata, perché i paesi industrializzati, in particolare Stati Uniti, continuavano a crescere a ritmi molto rapidi. Quello che abbiamo visto negli ultimi 7-8 anni è il contrario: forti decelerazioni nei paesi avanzati e una buona tenuta dei paesi emergenti, per cui il gap si va riducendo. Detto questo, però, non dimentichiamoci che paesi come la Russia sono ancora fortemente dipendenti dalle esportazioni di oil and gas, petrolio e gas, che il Brasile ha un'economia ancora fortemente dipendente dalle materie prime e ha registrato un brusco rallentamento nell'ultimo anno, la stessa India ha dei problemi di economia politica molto rilevanti, e quindi, ripeto, non saranno dei processi di crescita lineare in queste regioni, mentre certamente l'Europa rimane ancora a rischio, e fino a quando non vedremo una crescita sostenuta in Europa i rischi non sono del tutto eliminati. Però la mia impressione è che il peggio anche per l'Europa sia alle spalle. Ce lo auguriamo tutti. Veniamo ai settori produttivi, dottor Ascari, perché voi come SACE appunto vedete anche là dove vi possono essere più problemi e invece anche più contratti, quindi più richiesta del vostro ruolo di gestione del credito e di copertura assicurativo finanziaria. I settori classici del Made in Italy, ma anche i settori, non che non siano classici, ma che non rientrano nel Made in Italy nell'immaginario, penso per esempio alla meccanica di precisione, alla meccanica industriale. Dove vedete gli elementi più positivi? Ma guardi, noi abbiamo definito questi settori della meccanica come il nuovo Made in Italy, perché riteniamo che in questi settori abbiamo delle specializzazioni e dei brand, ancorché non di beni di consumo, ma di beni intermedi, di beni industriali, che si facciano apprezzare nel mondo. E vediamo opportunità, le dico francamente, un po' ovunque. Ci sono alcuni mercati dove la dimensione rende possibile una strategia di penetrazione di lungo periodo, sto pensando appunto ai grandi mercati della Cina, del Brasile, dove le aziende devono avere un presidio continuo, però ci sono anche occasioni, opportunità, nicchie per i paesi, ad esempio, dell'Africa, anch'essi in via di industrializzazione e che hanno una forte attenzione ed interesse a tecnologie come le nostre per piccole e medie aziende. Quindi ci possono essere atteggiamenti diversi. Certamente un mercato come il Brasile, la Cina, la Russia va presidiato con delle strutture commerciali e forse anche di produzione e quindi con una presenza permanente. Altri mercati però non vanno sottovalutati. Tanzania, Etiopia, Uganda, molti mercati in Africa subsahariana oggi esprimono una domanda di quelle tecnologie che noi siamo particolarmente bravi a produrre, dalle macchine per la lavorazione del marmo, del legno, all'agromeccanica, e quindi direi dipende un po' dall'azienda. L'azienda grande deve presidiare i grandi mercati e cogliere opportunità negli altri, l'azienda piccola deve probabilmente cogliere le opportunità dove ci sono. Grazie al Chief Operating Officer di Sace Raul Ascari. A lei, buona giornata, grazie del tempo. Ma sì, guardiamola anche in positivo per quello che si riesce, ci sono opportunità in questi paesi. Con la Sace ne abbiamo parlato molte volte, loro dovrebbero fare un po' di più per i piccoli, per i piccoli e medi imprenditori e non solo per le grandi commesse, fermo restando che quando però tu assicuri e dai le garanzie per una grande commessa, poi garantisci anche il lavoro di tutti i subfornitori che spesso sono piccoli. Lo dico perché mentre il paese si interroga su altro, la cosiddetta economia reale continua a dover andare la mattina a svegliarsi, a cercare contratti all'estero in posti sempre più distanti e lunghi. Noi modestamente cerchiamo di dare qualche consiglio, suggerimento con i nostri ospiti anche a loro. Non mi trascinerete nella polemica politica, lo dico a chi scrive. E alcuni dicono: ma quest'uomo è veramente l'ospite che avevamo, sì, Chief Operating Officer di Sace, è positivo, ottimista. No, è che quando tu lavori sui mercati fuori dall'Europa ti accorgi che c'è tutto un mondo che cresce. Purtroppo quando tu ti occupi solo di Europa, o peggio ancora che d'Italia, come facciamo noi, ti sembra che veramente la situazione sia grigia per dir poco. Passiamo alla borsa, meno 0,80% la chiusura finale, meno 0,70 Parigi, meno 0,30 Francoforte, più 0,26 l'America, meno 0,23% il Dow Jones in questo momento. Bene, Parmalat più 4,3 A2A più 3,88 Ansaldo più 2,90 Autogrill più 2,5 Azimut più 2%. Male Mediaset meno 3,80, Popolare di Milano meno 3,60, Telecom meno 2,5, Unicredit meno 2,30, Banco Popolare meno 2, Popolare Emilia Romagna meno 1,6, Enel meno 1,4, Monte dei Paschi perde l'1,30, Intesa San Paolo l'1,20, Generali l'1%, Eni lo 0,90%. E come sempre l'aggiornamento lo facciamo con Radio Cori sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, oggi la notizia che riguarda il mondo bancario è quella del Crédit Agricole, che ha venduto l'intera quota posseduta in Intesa San Paolo. Il Crédit Agricole è una delle principali banche francesi, ci ha perso, nel senso che ha avuto una minusvalenza di 445 milioni. In realtà ha chiuso molto male il 2012, perché ha avuto un rosso da 6 miliardi e 500 milioni, su cui pesa sia la minusvalenza, voglio dire, quando tu vendi una quota, un po' come quando uno compra un'azione in borsa, se la vendi in perdita, quella si chiama minusvalenza, l'avevi pagata molto di più, o meglio, l'avevi pagata 445 milioni di euro in più rispetto a quanto l'hai venduta. Ma pesa molto anche la minusvalenza registrata sulla vendita della filiale greca di Crédit Agricole Emporiki, però comunque Agricola ha detto che non usciranno dall'Italia e quindi resteranno come presenza nel territorio. L'effetto sui titoli bancari? Ma c'è da dire che comunque il risultato del Crédit Agricole era abbastanza previsto dagli operatori, sì, sì. Infatti il titolo oggi era arrivato a guadagnare il 6%, alla fine ha chiuso con un rialzo attorno a 3 punti percentuali. Diverso invece è stato l'effetto su titoli bancari italiani, titoli bancari che sono risultati molto penalizzati, a partire per esempio dalla Popolare di Milano che ha perso il 3,6%, ma ricordiamo che si tratta di un titolo che nei giorni scorsi aveva guadagnato parecchio terreno sulle ipotesi che ormai si stanno per concretizzare di una trasformazione della banca in società per azioni. Poi c'è Unicredit per esempio che ha perso il 2,3%, qui un altro tema è quello della chiusura di oltre 350 filiali annunciata dal numero uno del gruppo Ghizzoni, che garantirà a livello immobiliare, perché Ghizzoni ha detto che non ci sarà nessuna perdita a livello occupazionale, a regime oltre 45 milioni di euro. In generale comunque tutto il comparto bancario oggi ha sofferto a Milano. Tra l'altro quando Crédit Agricole dice manterremo la nostra presenza in Italia si riferisce a Cari Parma, che è del Crédit Agricole, Assolutamente. Non a caso grande sponsor del rugby, perché i francesi da sempre hanno una tradizione sul rugby, anche Edison che è francese sponsorizza il rugby. Chiudo questa cosa di conflitto di interesse, essendo io un appassionato di rugby. Andiamo sulle altre notizie. Mediaset, nervosismo, il titolo prima cresce molto, invece poi oggi perde il 3,80. Cos'è l'appuntamento elettorale? Assolutamente sì, il titolo da quando Silvio Berlusconi è rientrato ufficialmente in politica ha guadagnato parecchio, oltre il 60%, in questi ultimi giorni c'è evidentemente molto nervosismo, anche perché tutti rilevano che l'esito delle elezioni di domenica sarà anche importante per quelli che sono gli scenari futuri di Mediaset. Poi ieri in più Silvio Berlusconi ha detto che il gruppo, non è una novità, chiuderà il 2012 in perdita per la prima volta nella storia, e questa è stata anche un po' una reazione a queste dichiarazioni. Bancari, dicevamo, BPM meno 3,60, debolezza sugli altri. Telecom, che succede? Meno 2,5%. Telecom, c'è un ibrido, ma che è sto ibrido? Ibrido è un bond a 60 anni che fondamentalmente garantisce a livello della valutazione del debito della società per il rating, viene computato come metà debito, quindi io emetto un ibrido per 2 miliardi, le agenzie di rating me lo computano per 1 miliardo. Questo è un vantaggio per la società, in particolare per una società come Telecom Italia che ha gli occhi puntati delle agenzie di rating, ma comporta anche il fatto che sul mercato verranno chiesti tassi di interessi e remunerazioni più elevate rispetto a un'emissione normale. In questo caso, siccome il mercato è molto turbolento, i tecnici di Telecom Italia, le banche che la stanno seguendo in questa operazione, hanno rilevato che ci sarebbero dei tassi troppo alti chiesti sul mercato per questa emissione, e quindi si è deciso al momento di congelare l'operazione. Sorrido perché sto leggendo dei messaggi che, capisco che gli ultimi giorni della campagna elettorale uno sia più nervoso, ma dire che io sono un filo berluschino e addirittura che difendo Oscar Giannino, quando non ero d'accordo con Oscar Giannino sulle sue idee, pur capendole, l'ho sempre detto, quindi giudico le idee, poi sul resto, ripeto, noblesse oblige, non mi fate commentare. Ognuno si faccia le sue idee, mi sembra che siano abbastanza chiare. Silvio Enrico è il nuovo rappresentante di Fare per fermare il declino, è appena uscita la notizia. Ma noi invece continuiamo a parlare di borsa dopo dopo il GR, perché vorrei commentare anche altri titoli e settore energetico. E poi passiamo a siderurgia, l'offerta su Terni, su acciai speciali Terni. E chiudiamo con l'allarme che lancia oggi la Commissione europea sul rischio povertà in Europa. 349-238-6666 per gli sms e poi la pagina di... minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa con Ceo Condina, Radio Corio, Sole 24 Ore. Ceo, al di là dei bancari, di Mediaset e di Telecom, di cui abbiamo parlato, oggi deboli alcuni energetici, meno 1,40% Enel, Eni meno 0,90%, molto forte invece A2A, più 3,90%. Ma guarda, qui soprattutto ricoperture, era un titolo abbastanza penalizzato nei giorni scorsi, che poi va un po' a strappi, un po' scende, un po' sale, se guardiamo gli ultimi 2-3 mesi comunque si attesta sempre tra 0,4 e 0,5 euro. Migliori e peggiori in assoluto della giornata: Gemini sul risparmio non convertibili più 19, Seat pagine gialle più 11,70, SNAI più 6,80, Telecom Italia Media di nuovo forte, più 6,12%. Ma qui c'è l'ipotesi che dopo le elezioni si riaprono i giochi? Ma al momento no, al momento c'è un'esclusiva. Il Cairo ha escluso un riaprire trattative con Della Valle, per cui il titolo però guadagna, il 6,12. Sì, ieri era sceso molto, viceversa l'altro ieri saliva molto su quell'attesa di un'offerta di Della Valle. Oggi il mercato è tornato insomma a scommettere sul potenziale rilancio di quest'asset. Compagnia della Ruota meno 7%, abbiamo chiarito cos'è. Premuda meno 6,70, Noema Life meno 6,50, i peggiori in assoluto come titoli oggi sul mercato. Chiudiamo con Parmalat, perché l'abbiamo tenuta per ultima, ma Parmalat ha fatto il 4,33%, è il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Qui c'entra la Danone, scusatemi la rima baciata. Prego. La Danone ieri ha diffuso i dati di bilancio, un utile stabile praticamente a 1,8 miliardi di questi tempi per un'azienda che fa alimentari non è poco, è un fatturato record che per la prima volta nella storia ha superato soglia 20 miliardi di euro, insomma buon augurio, un buono scenario per Parmalat, che fa lo stesso mestiere e che quest'anno potrebbe insomma replicare la performance dell'anno scorso. Beh, questo capita spesso in borsa: quando un concorrente va bene, la borsa premia anche l'altro titolo. Grazie a Ceo Conde nella Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi invece, in questa puntata in cui ci siamo occupati molto di economia reale per i dati dell'Istat, anche per uscire un po' dalla politica e dalle promesse, tornare a parlare dell'Italia che produce. Restiamo su questo tema, ci occupiamo nel caso specifico però di un'operazione che riguarda direttamente il mondo dell'acciaio. Parliamo di acciaio perché è arrivata oggi la notizia che c'è una cordata italiana, in realtà italo-lussemburghese, che è pronta a fare un'offerta per acquisire le acciaierie di Terni, l'ex ThyssenKrupp, ora in mano Outokumpu. I soggetti italiani coinvolti sono la Ilta Inox, la Marcegaglia SPA e poi c'è la lussemburghese Aperam, che appartiene al colosso mondiale dell'acciaio, il gruppo indiano ArcelorMittal. Hanno siglato i tre soggetti un memorandum of understanding, che vuol dire una prima proposta per una joint venture che sarebbe controllata comunque da Aperam, per partecipare alla gara per la vendita degli acciai speciali di Terni AST. Le prime reazioni di chi in questo momento controlla gli acciai speciali di Terni, e quindi Outokumpu, il portavoce Sara Tavanienen ha detto: accogliamo con favore questo interesse, e poi però non si è voluto commentare nello specifico, anche nei vertici degli acciai speciali Terni. Ha detto comunque la portavoce del gruppo: ci sono molti candidati in questa fase del processo di vendita, il consorzio di Aperam è uno di questi. Siamo però in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo Marcegaglia, Antonio Marcegaglia. Buonasera. Buonasera. Dunque, l'acciai speciale di Terni, storica acciaieria italiana fondata nel 1884, produce circa 1.200.000 tonnellate d'acciaio l'anno. Faceva parte, come ricordavo, della divisione acciai inossidabili del gruppo tedesco ThyssenKrupp, viene acquistata per 2 miliardi e 7 a inizio del 2012 dal gruppo finlandese Outokumpu. Però, per dare l'ok all'operazione, l'antitrust europeo ha imposto ai finlandesi la cessione di AST Terni, ecco perché, per evitare che si creassero posizioni dominanti nel mercato europeo dell'acciaio inox. Prima domanda: voi in realtà, come gruppo Marcegaglia, siete trasformatori di acciaio, non produttori. Il motivo che vi porterebbe, assieme agli altri due soggetti, a entrare invece direttamente nella produzione, qual è? Accorciare la filiera? Voi andate in giro per il mondo a comprare acciaio, per essere ancora più espliciti, per poi trasformarlo e lavorarlo. Accorciare la filiera, ridurre i costi, creare sinergie, qual è il motivo principale? Sì, buonasera. Beh, dunque, innanzitutto stiamo parlando di acciai speciali, in particolare inossidabili, quindi 1.200.000 tonnellate prodotte dall'acciaieria di Terni nel complesso dell'acciaio europeo si configurano nella nicchia, diciamo così, delle acciaie speciali ed è un asset estremamente significativo non solo in Italia ma anche in Europa. Premesso questo, noi siamo già importanti clienti, ritengo che Marcegaglia è il primo cliente di Terni e Terni rappresenta per noi, nello specifico del consumo di inossidabile del gruppo, quasi il 50%, quindi c'è un rapporto storico di fornitura strutturata. In realtà il nostro interesse non nasce dalla volontà precipua di accorciare la filiera in senso stretto, perché oggi c'è sufficiente disponibilità di acciaio e anche inossidabile nel mondo. Tuttavia, in prospettiva riteniamo che Terni come attività, come asset stand alone, quindi da solo, senza essere parte di una disegno industriale più ampio, cui l'intervento di Aperam potrebbe avere la vita difficile. Quindi il nostro ruolo è un ruolo di accompagnamento e di difesa di un importante asset italiano, sia nella logica industriale dell'acciaio italiano europeo a medio termine, sia nella logica di un fornitore strategico per il nostro gruppo. Il vostro gruppo. Quindi vi assicurate, diciamo, adesso tra virgolette, l'italianità a medio termine potrebbe essere, diciamo, messa in crisi da una situazione che riguarda in particolare i produttori di acciaio, che non è, diciamo, estremamente facile per gli europei. Quindi voi vi assicurereste da un lato l'italianità di un fornitore e quindi la continuità di un fornitore per voi molto importante, che altrimenti, se ho ben capito il ragionamento, restando da solo rischia di essere stritolato. Invece in questo modo voi vi garantite la sua vita futura, non che sia in discussione la sopravvivenza, ma insomma la vita futura. E questo è un aspetto, dopodiché evidentemente alle giuste condizioni e con un piano industriale integrato, grazie anche alla presenza di Aperam ovviamente, che è un player importante in Europa, riteniamo che possano esserci sinergie industriali che nascono dalla massa critica, eccetera, tale per cui può diventare anche una buona opportunità sotto un profilo dell'impresa. Ecco, senta, dottor Marcegaglia, al di là della vicenda Ilva, che è una vicenda giudiziaria di impatto ambientale, sanitaria e anche di braccio di ferro, come abbiamo visto, tra la Procura di Taranto e il governo, io vorrei capire una cosa. Noi di acciaio abbiamo parlato sempre per l'Ilva in questo periodo, l'Italia però resta il secondo produttore d'acciaio in Europa. Qual è la situazione in questo momento? Perché noi vediamo che la difficoltà nella ripresa economica, o meglio la non ripresa economica dell'area euro, ha portato anche a un calo della domanda nell'area euro stessa, però ci sono paesi che invece sono tornati a correre già dal 2010 in poi, ne parlavamo in precedenza con la SACE, cioè aree di grosso e forte sviluppo. Qual è la situazione che voi fotografate in Europa e soprattutto l'approvvigionamento di acciaio è critico per via della crescita dei paesi emergenti oppure langue perché la produzione industriale in Europa è così bassa che poi la domanda è anche poca? Ma sostanzialmente l'Europa sta oggi vivendo una situazione di sovracapacità produttiva che possiamo definire strutturale, perché se da un lato negli ultimi 5-6 anni l'industrializzazione dei paesi asiatici con la Cina in testa ha comportato un traino importante dei consumi d'acciaio e delle materie prime, con uno strappo anche sui prezzi, oggi c'è un rallentamento anche nel mondo della crescita dell'acciaio. La Cina è prevista continuare a crescere, ma comunque a tassi più bassi, e i paesi già emersi e le economie mature, tra cui l'Europa, sono effettivamente in uno stato di se va bene consumo piatto, ma in realtà vediamo che i numeri di questi ultimi due anni, di questa anche prima parte del 2013, per come si prospetta, sono in realtà in calo. Quindi abbiamo una domanda debole, poiché ricordo che l'acciaio è trainato soprattutto dagli investimenti fissi e dalle costruzioni, che con la carenza, diciamo, la criticità finanziaria in generale anche degli stati e con l'economia che ristagna, sono particolarmente segnati. Allora, in bocca al lupo alla vostra cordata che permetterebbe a Terni di restare a Cespedes Terni in Italia. Io dico sempre, meglio italiane a parità di mercato, però. Lo abbiamo fatto come ragionamento per Parmalat, per Bulgari e quant'altro, non italiane per forza. Però noi siamo contenti se poi un gruppo resta italiano o torna italiano. Grazie chiaramente a Antonio Marcegaglia, amministratore delegato del gruppo Marcegaglia. Andiamo col traffico e poi l'ultima parte del programma con il presidente dell'Istat su questo allarme povertà lanciato dall'Europa. Strade in diretta. Il traffico è intenso intorno a tutte le grandi città come di consueto a quest'ora, ma al momento non si registrano particolari problemi. Sull'autostrada invece 1 chilometro di coda per lavori tra Incise e Arezzo in direzione di Roma. E nella capitale è stata riattivata da poco la ferrovia Termini Giardinetti dopo un momentaneo blocco in via Casilina per un guasto. È tutto, a più tardi. Focus Economia. Mai avuto degli aggiornamenti sul traffico così brevi, evidentemente o gli italiani sono migliori o la crisi morde anche sul traffico, non lo dico perché eravamo abituati a altri aggiornamenti. Veniamo all'Europa e all'Istat, perché? Perché due sono i fronti. L'Unione Europea dice aumentano i poveri in Italia, occorre rivedere la spesa sociale, teme che in Europa la disoccupazione possa portare ormai la stima di 120 milioni di persone in difficoltà, a rischio povertà, siamo al 24% per la precisione della popolazione europea, non il 4% come ho detto erroneamente, chiedo venia, era sbagliata l'agenzia, io l'ho letta senza controllarla, poi abbiamo fatto due calcoli e chiaramente hanno ragione gli ascoltatori. Ma al di là di questo, chiede la Commissione europea, rivedete ai vari paesi le strategie nazionali, perché la spesa sociale non è solo consumo, non è solo uno spreco, una spesa. È anche un investimento che consente una crescita inclusiva. Cosa vuol dire inclusiva? Vuol dire che tiene dentro il maggior numero di persone, non fa solo degli happy few, dei pochi felici e ricchi, aumentando il divario con chi invece ha meno. Un allarme ripreso dal presidente dell'Istat, Giovannini. L'Unione Europea sta attraversando una crisi economica grave, i cui esiti sono imprevedibili. È in collegamento con noi. Buonasera, presidente. Buonasera. Cosa vuol dire imprevedibili? Cosa teme? Ma imprevedibili perché intanto abbiamo visto che la ripresa economica è ancora incerta, ma soprattutto tutti i centri di previsione indicano che sarà molto debole, soprattutto nella seconda metà del 2013, il che vuol dire che l'effetto sull'occupazione, o meglio sulla riduzione della disoccupazione, saranno molto ritardati. Abbiamo già circa 24 milioni di disoccupati nell'ambito dell'Unione Europea nel complesso, e quindi una ripresa economica che non abbia effetti di breve termine sull'occupazione è chiaro che porrebbe molte più persone a rischio di povertà e esclusione sociale. I dati che avete dato voi sono piuttosto preoccupanti, soprattutto in alcuni paesi, soprattutto in alcune aree dell'Unione, e questo potrebbe determinare una divaricazione tra aree più forti e aree più deboli, con esiti appunto imprevedibili, come abbiamo già discusso l'anno scorso. Senta, presidente, le giro una domanda che fanno molti ascoltatori: ci stiamo o rischiamo come area euro, perlomeno la parte diciamo del sud, di grecizzarci, cioè di fare la fine della Grecia, a cui tagli con l'accetta, oltre che tasse, stanno generando una continua recessione da cui la Grecia non sembra uscire? Ma credo che anche le ultime valutazioni del Fondo Monetario Internazionale, le dice Blanchard? Sì, in generale è una serie di articoli che sono usciti di tipo scientifico, che mostrano come in una fase come l'attuale concentrare in breve tempo gli aggiustamenti fiscali pure necessari determinano delle recessioni molto più forti. Questa è una revisione dei cosiddetti moltiplicatori di un aggiustamento fiscale, purtroppo. Sì, beh, quando si dice fiscale in Europa si intende di finanza pubblica, perché no, se fiscale da noi vuol dire il fisco, poi facciamo confusione. Ha ragione, cioè tagliare il deficit, ridurre il deficit in maniera così brutale come ha chiesto la Germania attraverso l'Europa con il fiscal compact, che è, a mio avviso, una vera aberrazione, quasi una bestemmia in un periodo di recessione, al di là del delirio tedesco, aumenta, moltiplica l'effetto di recessione, se ho ben capito. Soprattutto se tutti i paesi lo fanno simultaneamente, certo. Naturalmente, perché questo genera aspettative al ribasso sia delle imprese che delle famiglie, che quindi tendono a risparmiare di più o a non investire. Ecco, questa non vuol dire necessariamente la spirale greca di cui lei parlava, perché la spirale greca, ricordo, nasce tra l'altro da dati statistici truccati nel passato e soprattutto da uno squilibrio profondo, perché l'economia greca è debole. Sì, era tutta in nero, con grandi privilegi per i dipendenti pubblici, molta economia sommersa, tantissima evasione fiscale. Paragonabile in nessun modo con una manifattura italiana. No, per esempio, ha ragione. Infatti la battuta che sembra Italia è solo una battuta. Noi abbiamo la manifattura più forte d'Europa dopo la Germania, come dati sull'export, per cui siamo un paese industrializzato, non abbiamo avuto la bolla immobiliare che hanno avuto in Spagna, stiamo coi piedi per terra. Però quello che vorrei capire da lei, tanto mancano 3 giorni alle elezioni, si può anche esporre, Presidente, ma insomma, il consiglio che lei darebbe al prossimo Presidente del Consiglio, mi scusi il gioco di parole, è quello di andare da economista, di andare a Bruxelles a battere i pugni, perché questo lo sostiene l'editorialista contro Monti del Financial Times, Munkau, che dice: Monti ha sbagliato perché doveva andare a suo tempo a dire alla Merkel: cara Merkel, o tu alleggerisci queste richieste di tagli sul deficit e il debito, oppure io ti minaccio un'uscita dell'Italia dall'euro, che tanto la Germania vedrebbe con un'estrema paura, più ancora di qualunque Italia che riduce poco il suo deficit, perché se noi usciamo dall'euro la Germania non esporta più nulla qui e torna a trovarsi con una moneta troppo forte. Lei consiglierebbe questa linea? Ma io non sono un politico e quindi non mi metto. Ma è un economista, è il presidente dell'Istat, ha tutti i dati in mano. Non sia modesto, Giovannini. Non suggerisco di battere i pugni. Quello che intendo dire è che l'Europa, l'Unione Europea, o esce più forte da questa crisi, tutta insieme, non soltanto un pezzo, oppure sarà ancora difficoltà nel confrontarsi con, come si dice, la competizione. Allora credo che sia nell'interesse anche della Germania o anche di altri paesi forti che tutta l'Unione esca da questa crisi in modo forte. Quell'idea per cui alla fine siamo in un gioco a somma zero, per cui se qualcuno guadagna qualcuno deve perdere, dimentica la globalizzazione. Nei prossimi anni ci saranno centinaia di milioni di nuovi ricchi in tutto il mondo. O l'Europa riesce, ad esempio, a fornire servizi, beni che possono essere utili per queste persone, oppure è destinata comunque alla marginalità mondiale. Questa credo che sia una partita molto grossa, come si vede, ed è una partita di medio termine in cui tutti i paesi devono spingere. Quindi la risposta, Giovannini, è sì? La risposta è: credo che avremmo tutti da perdere in una rottura dell'Unione Europea, in particolare di quella monetaria, e quindi bisogna fare tutto quello che si può fare per evitare questo. È molto diplomatico oggi. Ma non sono molto diplomatico, credo profondamente nell'Unione, profondamente nella possibilità che un'Europa forte, unita... Non lo dica chi ha giustamente proposto il Fiscal Compact, che a noi ci costa qualcosa come 45 miliardi di euro l'anno. Però attenzione, Barisone, nel momento in cui noi abbiamo dei mercati finanziari totalmente globalizzati e molto mobili, è chiaro che nessuno ha voglia di investire in un'area che non cresce, con un debito pubblico molto forte, cioè in cui l'investimento è a rischio. Questo lo farebbe qualsiasi ascoltatore. Ed ecco perché abbiamo bisogno di una strategia che renda nel medio termine forte l'Europa, in modo tale da attirare quei capitali che sono in giro per il mondo alla ricerca di un'area profittevole, non solo sul piano puramente economico, ma anche... Ma guardi, io su questo sono d'accordissimo con lei, cioè noi dobbiamo continuare a rimettere a posto i conti. È il come, cioè se io chiedo a un paziente di curarsi e gli do una cura da cavallo, rischio di ucciderlo delle volte. Altra cosa è prevedere una riabilitazione in un tempo più lungo. È solo il tempo, non l'obiettivo. Su questo mi sembra che la pensiamo nello stesso modo. Presidente Giovannini, grazie. Grazie a lei. E ho capito benissimo anche la sua preoccupazione. Sono arrivati una marea di messaggi sul traffico nelle tangenziali che non c'è. Milano, altre cose, è l'effetto della crisi. Scrive un ascoltatore: potrei fare un test a coda in tangenziale a Milano senza urtare nessuno, adesso non esageriamo, dai. Oh, vogliamo prenderlo come uno dei benefici della crisi? Un po' dura, ma vabbè, facciamo così, meno traffico sulle tangenziali. In realtà noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Intanto da Sebastiano Barisoni, buona serata. Radio 24, la passione si sente.